cuore tutto quel che hai dato a me. Avevo visto già il mio avvenire negli occhi tuoi, ma i castelli al mattino cadono giù e all'alba tu mi hai dato. Ma all'improvviso una campana rintoccò e si spezzò.